tenevo dentro. Forse che temevo, forse non bevevo, non fosse quello il momento. Adesso ho scelto di mandare tutto al diavolo e gli scopi nel mio cesso. Mi porto solo l'alcol ed un opine l'appresso. Lascio una mia lettera sul tavolo, saluto il mio labrador bastardo. Lo tocco e lo riguardo perché non so se mi salverò. Poi chiudo la porta con un zoc e me ne vada io. È vero che ora non sono io, non raccomando, manco quest'anima a Dio. L'ascensore suona e poi mi avvio. Esco in perfetto orario, scusa mamma, ma la colpa non è mia, è dell'odio che mi investe. Sono diretto verso est e accendo una zizza al contrario, così sparo una bestemmia. Hai vissuto tranquillo ma la vendetta è più forte. Stanotte è già deciso che qualcuno merita la morte. Io non voglio finire così, non lo so io. Cosa ci faccio qui dentro e levi il rasoio? Credevi che fosse nel dimenticatoio e tu verrai con me perché stanotte muoio. Io non voglio finire così, non lo so io. Cosa ci faccio qui dentro e levi il rasoio? Credevi che fosse nel dimenticatoio e tu verrai con me perché stanotte muoio. Lo stomaco si stringe, la mia lingua è secca e ingoio. Volevi dei problemi sul vassoio, usa la tua cinghia di cuoio. Cosa credi che spacchi? Coglione, la tua fine una trasferta nel girone dei vigliacchi. Mi fermo al tabacchi, lo so, io sarò un killer a furia di tenere i piedi in testa. Un giorno te e gliela stacchi come a Nick Berg. Lascia stare il jeans, esca la violenza repressa dentro lo Spielberg. E vado dalle mie prigioni mentre esplode il Big Bang. In te per la strada chi c'è? Infami che in Selande si difendono con spranghe. Io invece uccido perché c'ho sete di sangue. Le umiliazioni portano motivazione. Ora percorro due rioni nel cranio, demoni come gli uni. Mi estraneo dal reale mentre loro si muovono sotto il portone del mio dito sul citofono. Dove minchia sarà il portone adesso, porco? Quel cazzo riesci a vedere? Panichiri, chichessa, nura, solina, san... Io rispondo. Chi è? Sono Gabriele. Potresti scendere? Gabriele chi? Gabriele chi? Sono Gabriele Spanu. Oh, ho capito. Hai capito? Gabriele, cosa vuoi? Cosa voglio? Cosa senti, vuoi? Devi scendere adesso, dai. Scendere? Perché lo puoi scendere? Perché lo vuoi scendere? Non me ne frega un cazzo. Cosa? Vedi di scendere. Ma non cosa da dirti? Ah, aspetta che stai scendendo, mica sono caro a cazzo. Guarda, ascolta, scendi e non rompermi i coglioni. Fammi il favore, dai che è meglio per tutti e due, su. Oh, ma come ti sono qui dentro? Cosa cazzo fai? Vedi di scendere, io scendi, dai scendi. Io non voglio finire così, non lo so io. Cosa ci faccio qui dentro e levi il rasoio? Credevi che fosse nel dimenticatoio e tu verrai con me perché stanotte muoio. Io non voglio finire così, non lo so io. Cosa ci faccio qui dentro e levi il rasoio? Credevi che fosse nel dimenticatoio e tu verrai con me perché stanotte muoio. Io non voglio finire così, non lo so io. Che ci facevo lì fuori del levi il rasoio? Non credi più, ormai sei dentro al corridoio. Ma io verrò con te perché stanotte muoio. Io non voglio finire così, non lo so io. Che ci facevo lì fuori del levi il rasoio? Non credi più, ormai sei dentro al corridoio. Ma io verrò con te perché stanotte muoio.